Io ho pensato di tirargli un cartone forte sulla faccia, ma non l'ho fatto perché a un certo punto lui si è calmato, si è seduto sul divano e ha detto che io avevo ragione, che questa era casa mia, non sua, e che lui era un ospite e che spesso gli ospiti li invitano, ma spesso arrivano quando hanno bisogno e se hanno bisogno di solito non aspettano di essere invitati. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 6 minuti di un lunedì qualunque, 4 aprile 2011, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Qualche anno fa ho passato due estati della mia vita a Trento. Era per motivi di lavoro, però ci stavo bene, a Trento e in Trentino anche. La città è piccola e accogliente, in estate la gente cammina, corre, gioca a tennis, va in montagna, in barca, fa grigliate come se piovessero. In quei due anni ho conosciuto un gruppo di ragazzi, un gruppo di amici sulla Trentina, alcuni con figli, altri no, alcuni non sposati, altri sì. La sera ogni tanto mi invitavano a cene e a feste nella casa di uno di loro, quello che aveva la casa più grande, quella con il giardino, e poi era quello che riuniva le persone. Un giorno, al tavolo insieme a noi, spunta un signore sulla cinquantina. Ha la pelle scura e la faccia indiana. È dello Sri Lanka e vende le rose. Mangia un po' di carne insieme a noi, poi prende il suo mazzone di fiori ed esce. Io faccio finta che sia tutto normale. Però effettivamente non c'è niente di normale, visto che di solito le persone che vendono le rose stanno in piedi fianco al tavolo mentre tu mangi e non sono sedute con te e parlano con gli altri come se li conoscessero. Perlomeno oggi. Io però in quel momento non voglio fare la figura di quello che è pieno di luoghi comuni, di preconcetti, quindi non dico niente. Poi verso la fine della cena, quando mi sento più rilassato e meno cretino, raggiungo Edoardo, il padrone di casa, che è in cucina, e gli chiedo di questo signore dello Sri Lanka. Edoardo, come se niente fosse, come se fosse la cosa più normale della terra, mi racconta che qualche mese prima aveva incontrato questo tizio in un ristorante. Gli aveva raccontato che non vedeva la moglie e la figlia da mesi, perché non poteva farli venire in Italia, visto che il suo appartamento era troppo piccolo e la legge impediva che vivessero in tre in un monolocale. Edoardo allora si è offerto di dargli la residenza in casa sua, che era una casa grande e ci viveva solo con la fidanzata. E qualche mese dopo, moglie e figlia sono arrivate in Italia, nel monolocale. Questa è una storia abbastanza semplice ed è vera, mi è successa qualche estate fa. Io non sento Edoardo da allora, non so come sia finita la storia sua, del signore cingalese e della famiglia. Ho saputo che si è sposato e che ha cambiato casa, quindi deve aver cambiato anche residenza, Edoardo dico. Questa storia mi ha sempre colpito però, perché tutte le volte che l'ho raccontata a qualche pranzo o a qualche amico, intorno a me c'era sempre qualche persona che ne aveva di simili, di storie come questa, personali magari vissute da loro, oppure da amici o da conoscenti, o comunque che aveva sentito storie di questo tipo. Persone che contro il senso comune e spesso contro la legge regalano qualcosa senza chiedere niente in cambio. Io ammetto, non lo so se sarei capace di farlo, non so se sarei in grado di combattere contro la sensazione che sto rischiando più di quanto ci potrei guadagnare. Se però all'ascolto c'è qualcuno che ha aiutato uno straniero, qualunque esso fosse, di qualsiasi paese esso, da qualsiasi paese arrivasse, qualcuno che ha fatto come Edoardo, ecco, io sono qui. E il numero è quello, è 800240024 per chiamare in diretta. E invece per mandare un sms è 349-238-6666. Vi ricordo che l'800240024 è gratuito. Così ve la butto lì, no? Che magari uno non c'ha voglia di spendere quei 10 centesimi di sms. Vi dicevo, qualsiasi straniero, non stiamo parlando solo di immigrati, non stiamo parlando di gente che arriva dal sud del mondo, come sento spesso dire, come qualcuno ama dire. Sto parlando di gente che è semplicemente di un altro paese, che magari è francese, magari è svizzera, magari è del Maghreb, magari è canadese, magari è tedesca ed era in vacanza, cercava lavoro o faceva l'Erasmus. Qualsiasi straniero a cui voi abbiate dato una mano, 800240024. Fabio, ad esempio, una sera d'estate aiutai un cicloturista canadese a trovare riparo per la notte, solo che l'ostello della mia città era chiuso e lo portai in un centro d'accoglienza. Che aiuto è, Fabio? Cioè, scusa, se l'hai tenuto in casa è un conto, il cicloturista canadese lo scarichi al centro. Poi esistono centri di accoglienza per cicloturisti. Antonella, noi abbiamo una pasticceria e un ragazzo del Senegal ci viene a trovare regolarmente. Noi compriamo le sue cose anche se in realtà a volte non ci servono. Poi se dobbiamo fare dei lavoretti li facciamo fare a lui. Ok, anche qualcosa di più di questo, nel senso che comprare la roba anche se non ne hai bisogno insomma lo fanno più o meno tutti. Ross. Ross, non so perché, Rossano forse. Io ho assunto la colf moldava, così è riuscita ad uscire dalla clandestinità, è tornata a casa dopo 5 anni per riabbracciare la figlioletta. Ora tutte e due vivono in Italia, lei lavora, la figlia va a scuola. Si può essere solidali anche semplicemente seguendo le leggi italiane, giusto? Ross ci tiene a sottolinearlo che non si deve per forza andare contro la legge. Vi chiedo solo una cosa però, vi chiedo di risparmiarmi la retorica riguardo all'aiutare il prossimo, la retorica che ha a che fare con i commenti politici, primo perché non è qua che ne parliamo, secondo perché non ho proprio voglia di farlo. È come al solito, è esattamente come al solito, io vi racconto la storia che succede a me, voi se ce l'avete raccontatemi la vostra. 80024 0024. Magari, visto che abbiamo scoperto che ci sono un sacco di ascoltatori stranieri che lavorano, che vivono e lavorano in Italia da un bel po' di tempo e che per lo più sono trasportatori, no? Dei quei 4-5 che abbiamo sentito, molti erano trasportatori e hanno voglia di raccontarci com'è stato quando sono arrivati, se c'è stato qualcuno che li ha aiutati e poi magari hanno trovato anche il modo per sdebitarsi, il numero lo sanno anche loro. 80024 0024, 349 238 6666. C'è anche un indirizzo ovviamente, che io sono qui @radio24.it. Il tutto perché questo fine settimana è stato abbastanza difficile per diversi motivi, ma il motivo fondamentale per cui questo fine settimana è stato difficile è quello che sto per raccontarvi adesso. Questa sera io vorrei andare ospite da Gad Lerner. Sì, stasera mi piacerebbe essere seduto su una di quelle poltroncine da cinema di velluto rosso dello studio dell'Infedele, il programma di approfondimento politico più lento e lungo della storia dei programmi di approfondimento politico. Mi piacerebbe andarci per raccontare il mio weekend, intitolando il mio intervento Weekend col tunisino. Vorrei sedere tra un sindaco della Lega e un parlamentare del PD. Vorrei intervenire in una discussione tra un cooperante e un giornalista di Libero. E mentre si parlano uno sopra l'altro, mentre si stanno accusando a vicenda, mentre non sanno bene quello che stanno dicendo ma lo stanno dicendo a voce molto alta, io vorrei alzarmi in piedi, salire su una sedia e zittirli tutti dicendo: adesso ve ne state zitti un secondo e ascoltate com'è passare un fine settimana con un ragazzo tunisino. Ricapitoliamo velocemente. Samir è un ragazzo che Natalia ha deciso di accogliere qualche giorno fa in casa, perché nella ONG dove lei fa volontariato, venerdì non avevano trovato un posto in cui farlo dormire. Lì per lì la cosa mi ha un po' stranito, perché ho pensato che fosse un gesto generoso da parte sua, che fosse bello, chiaramente, aprire le porte di casa propria ad una persona bisognosa, ma soprattutto ho pensato che questo si sarebbe trovato un'altra soluzione in poco tempo. Quando però sabato mattina mi sono alzato dal letto e l'ho visto aggirarsi per la casa con le mie ciabatte da piscina, ho capito subito che mi sbagliavo. Mi è capitato una sola volta di fare un errore così macroscopico come ospitare qualcuno che si approfittasse della mia buona fede e che con la scusa di cercare una nuova sistemazione aveva fatto diventare casa mia la sua nuova sistemazione. Era molti anni fa e in quel caso era un amico di Busto Arsizio che faceva uno spettacolo a Milano, uno spettacolo che doveva durare una settimana e durò 3 mesi. Però almeno lui lo conoscevo. Samir invece, a parte il fatto che aveva lo stesso nome del pizzaiolo egiziano che lavorava vicino alla mia casa da studente, io non sapevo manco chi fosse. Sabato mattina però, nonostante fosse mattina e lui si aggirasse, ripeto, con le mie ciabatte da piscina, ho fatto finta di niente. Lui si è offerto di farmi un caffè, io gli ho risposto che non bevo caffè e mi sono preparato un tè. Ho fatto finta di non ricordare il suo nome e gliel'ho domandato di nuovo, perché mi sembrava un modo per marcare una distanza ed evitare che si prendesse subito troppe confidenze. Mi ha risposto Samir e io ho fatto la domanda di riserva, quella che tengo sempre pronta quando sento un nome straniero incomprensibile. Le ho chiesto se il suo nome significasse qualcosa di particolare. Lui si è illuminato, come se aspettasse solo quella domanda per iniziare un nuovo discorso. Mi ha detto: certo, certo significa compagno di una chiacchierata notturna. Ecco, lui lì probabilmente si aspettava qualche mio commento, però io ho fatto giusto un cenno con la testa e ho continuato a prepararmi il tè. Lui si è seduto sul divano, si è messo a leggere la Gazzetta dello Sport. Lì ho fatto un sospiro di sollievo e ho realizzato che allora qualcosa di cui parlare con Samir forse ce l'avevo. Il lascia passare per la confidenza tra uomini, l'argomento che unisce tutti i popoli, che li rende simili, uniti, la quintessenza della democrazia umana, il gioco del calcio. Gli ho chiesto se gli piaceva il calcio e lui mi ha detto che gioca in una squadra di non so quale categoria, che ha un centravanti e che per lui giocare è come ricaricarsi le pile. Mi ha detto che seguiva molto il campionato italiano, ma quello inglese lo divertiva di più. Io, in uno slancio di condivisione, gli ho detto che la mia squadra aveva appena comprato un giocatore suo connazionale, un centrocampista, si chiama Karja. Lui ha sorriso e mi ha risposto che Karja è marocchino, non tunisino. E poi con un ghigno mi ha detto: ah, ma quindi sei interista? Io ho annuito e lui si è alzato, ha raggiunto un minuscolo zaino che era tutto il suo bagaglio, ha tirato fuori una maglia a strisce rossonere, la maglia di Clarence Seedorf, e ridendo ha detto: allora andremo d'accordo. Perfetto. È pure milanista. Ma di tutto questo c'era ancora un dettaglio che mi sfuggiva. Era un dettaglio che io avrei dovuto intuire in realtà, che avrei dovuto sapere senza nemmeno domandarmelo. Un dettaglio che sarebbe venuto fuori a breve. Dopo aver scoperto che io e Samira avevamo idee divergenti in fatto di calcio, Natalia è apparsa in cucina dicendo che era ora di andare a mangiare qualcosa. Io stavo per dire che mi sarebbe piaciuto del sushi. Lei si è girata verso di lui e gli ha chiesto cosa preferisse mangiare per pranzo. Lui ha sorriso e ha detto che gli sarebbe piaciuto un bel risotto alla milanese. Quindi siamo usciti e siamo andati alla trattoria della Madonnina, che detta così sembra lo spot di un'osteria per turisti gestita da calabresi che fa piatti tipici lombardi, ma in cucina ci sono cuochi peruviani. Invece no, è un posticino carino, è nascosto con delle tovaglie a scacchi e persone simpatiche che servono ai tavoli. Sabato la giornata era tiepida e siamo riusciti a convincere il proprietario ad apparecchiare i tavoli all'aperto, quelli sotto il pergolato nel cortile. Abbiamo mangiato risotto allo zafferano e cotolette alla milanese. Samir si è pure mangiato due porzioni di tiramisù, dicendo però che sua madre lo faceva molto meglio. Io gli ho chiesto se in Tunisia si facesse il tiramisù e lui mi ha risposto che uova e mascarpone arrivavano anche là. Io lì per lì non ho capito se si fosse offeso o mi stesse solo prendendo in giro. E quando ho intuito che era la seconda ipotesi, un po' mi sono sentito sollevato. Alla fine del pranzo l'atmosfera era decisamente migliore rispetto a quella di prima. Forse anche per il fatto che Samir non aveva più su le mie ciabatte da piscina e che avevamo entrambi lo stomaco pieno. Ecco, ed è stato lì, è stato in quel momento che mi sono infilato in una discussione che probabilmente avrei dovuto evitare. Una discussione che mi ha fatto piombare nel panico e nella disillusione. Io guardo Samir e gli dico: quindi tu, Samir, sei un ingegnere? Lui mi dice: sì, io. E di che tipo? Lui: informatico. Io: ah, quindi lavori a quelle cose tipo la programmazione? Lui: no, lavoro alla ricezione. Io: ricezione di che, scusami? Lui: degli ospiti. Lavoro al resort Sole d'Oro, a Gerba. Io: che cos'è, scusami? Lui: è un villaggio vacanze, l'80% della clientela è italiana. Io: ah, e adesso? Lui: adesso il villaggio è stato chiuso. Io: ah, e quindi cosa pensi di fare? Lui: sai, secondo te? Io rimango in silenzio. Lui: Matteo, sono qui per cercare lavoro. Io: certo, lo immaginavo, ma in che settore vuoi cercare? Lui: ma qualunque, prima però devo avere i documenti. Io: quali documenti, scusa? Lui: il permesso di soggiorno. Io: ma perché, scusa, non ce l'hai? Lui: no che non ce l'ho. Io: ma quindi tu sei un clandestino? Lui, sorridendo, mi guarda e mi dice: eh sì, Matteo, sono un clandestino. Benvenuto sulla terra. Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy. El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo. Perdido. Che io lo sapevo, io lo sapevo. Cioè, in realtà non lo sapevo perché non l'avevo ancora chiesto, ma una parte della mia testa lo immaginava, lo supponeva, anche solo incoscientemente, anche solo inconsciamente. Però sentirsi dire da un ragazzo di qualche anno più giovane di me, un tizio che lavorava in un posto in cui io sarei potuto andare in vacanza e che mi stava pure sulle palle perché era milanista, ecco, sentirgli dire che era un clandestino è un po' stato come sentire una goccia gelida che si infilava nel colletto. In un attimo ho fatto alzare lui e Natalie, li ho obbligati a tornare immediatamente a casa. Gli ho detto che era un irresponsabile a non avermelo detto prima, che non può andare in giro così, che mette a repentaglio se stesso e pure noi. Lui mi ha detto che non era un prigioniero, che era solo una persona che se n'era andata dal suo paese perché il suo paese non poteva crescere. Ci siamo messi ad urlare in salotto, dove il divano letto era aperto e in giro c'era un gran casino. Ecco, e lì per un attimo io ho pensato di tirargli un cartone sul naso. Una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Ho pensato di tirargli un cartone sul naso forte, perché la sua libertà rischiava di ledere la mia libertà. Perché io non l'avevo cercato lui, non l'avevo voluto in casa mia. Lui c'era arrivato senza che io lo invitassi. E ora pretendeva pure di andarsene in giro come niente fosse, facendo finta di essere uno di noi. Ecco, lì ho pensato davvero di tirargli un cartone sul naso, però non l'ho fatto, perché a un certo punto lui si è calmato. Si è seduto sul divano e ha detto che io avevo ragione. Mi ha detto che questa era casa mia, non sua, e che lui era ospite. E che spesso gli ospiti li invitano, ma spesso arrivano quando hanno bisogno. E se hanno bisogno, di solito, non aspettano di essere invitati. Ecco, adesso avete capito perché io stasera vorrei andare ospite da Gad Lerner. Perché vorrei raccontargli questa cosa. La cosa che mi ha detto Samir, mentre era seduto sul mio divano, parlando di ospiti, di inviti e di necessità. Mettetevi a guardare chiaramente il programma stasera, perché non mi inviterà nessuno, purtroppo, al programma di Gad Lerner. 800240024 349-238-6666. Allora, Marco mi scrive: mamma mia, come sei ziccoso. Credo che sia siciliano, però non so cosa voglia dire, forse zuccheroso, melense, non lo so. Giacomo mi chiede: ma avete visto il derby insieme? Allora, Claudio, solo per il fatto, ma tutti questi, solo per il fatto che è milanista dovresti ospitare la vita. E finalmente qualcuno invece che mi racconta la sua di storia. Assunsi come domestico un ragazzo egiziano che non mi serviva. Adesso lui fa l'operaio per la ex di mio fratello e si è sposato ed è felice. Ho assunto la vicina di casa domenicana per ricongiungere due figli minori. Ora ho chiesto l'assunzione della figlia maggiore per far arrivare anche lei, Barbara. Ho garantito, questo è Morris, ho garantito col mio patrimonio personale un prestito di 10.000 euro che altrimenti la banca mai avrebbe concesso a Steve. Steve ha pagato tutte le rate. Andiamo a sentire invece qual è la storia di Zubir, giusto? Zubir da Parma. Pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao, dico bene il nome? Sì, ma uguale, quasi uguale. Okay. Zubir, di solito è Zubir, si pronuncia così. Zubir, perdonami. Senti Zubir, no, da dove vieni e quanto sei in Italia? Allora, io praticamente vengo dal Marocco e sono qua in Italia dalla fine del 2003. Ok, quindi neanche 10 anni. Che cosa fai qua? Allora, praticamente io quando sono arrivato come studente, nella fine del 2003. Sì. E poi adesso sto facendo un lavoratore in un'azienda dei distributori automatici. Ah, ok. Volevo raccontare una storia che è successa praticamente personalmente a me. Sì, dimmela. Un anno prima di venire proprio in Italia, mentre che passeggiavo un po' non molto lontano dal mio quartiere, che io vengo da Casablanca, che è una città molto molto grande, sì, una metropolitana, ci è fermata una macchina con una famiglia francese, infatti anche la targa era francese e tutto il resto, e mi hanno chiesto delle informazioni per un albergo. Sì. Io praticamente nel posto in cui mi hanno chiesto questo albergo erano quasi 5-6 chilometri, se non molto di più, però in una città così grande era difficile trovare questo albergo. Allora gli ho detto: guardi, se lei vuole lo posso anche portare fino lì. Insomma, li hai accompagnati? Infatti sono salito sulla macchina e siamo andati in quell'albergo. Uh-huh. Arrivando lì praticamente non c'era posto, era proprio il periodo di agosto e per cui gli alberghi erano abbastanza pieni. Per cui mi hanno detto: guardi, non sappiamo come fare adesso, noi ci siamo organizzati per questo albergo, non sappiamo neanche dove andare. Io gli ho detto: guardi, adesso sento un amico che ha un albergo piccolino, 3 stelle, farà, se vi piace potete andare di là. Infatti abbiamo preso sempre la loro macchina, siamo andati in un altro posto della città dove c'è questo albergo. Sì. E per fortuna lì abbiamo trovato il posto. Quindi diciamo, Zubir, quello che mi stai dicendo è che tu hai aiutato degli stranieri in Marocco e poi qualcuno ti ha aiutato qua quando sei arrivato a Parma, quando sei arrivato in Italia. Sì, praticamente è finita lì la storia, portandoli in questo albergo qua, li ho aiutati a portare giù il cavolo e tutto. Purtroppo devo salutarti, Zubir, non posso stare troppo al telefono, che devo mandare la borsa. Sì. Ma tu quando sei arrivato in Italia hai avuto qualcuno che ti ha dato una mano? In Italia sì, c'era questo mio amico con cui ho studiato per parecchi anni in Marocco e che poi si è trasferito in Italia sempre per studio, che abitava con la sua ragazza. Praticamente quando siamo arrivati abbiamo trovato una stanza già io e un altro ragazzo con una stanza già pronta per ospitarci, praticamente c'era il computer, il telefono, tutto il resto, e ci ha aiutato per parecchi mesi, per due, io sono stato lì per due mesi, mio amico per altre due, per cui quattro mesi dopo. Senti Zuber, devo salutarti che devo dare la borsa, dimmi solo, adesso tu sei sposato, hai una famiglia, dei figli oppure sì, no? Sì, sì, sì, c'ho la moglie che è sempre del mio paese, però l'ho incontrata qua, proprio a Parma, facendo 3000 chilometri ho trovato anche l'amore qua. dal Marocco a Parma direttamente on the road. Zuber, ti ringrazio molto, ti auguro una buona giornata. Grazie, Matteo. Ciao, grazie. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo negli anni 60, direi. Lo si vede perché la foto è in bianco e nero, ma soprattutto per come è vestito il protagonista della foto. È un bambino che avrà 8 anni, ha su una camicina tutta abbottonata e ha in mano una macchina fotografica che io non conoscevo, però una di quelle alte, lunghe e strette, che Tiziano mi ha detto essere una Rolleiflex o Rolleiflex, e ha un sulla spalla, sì, credo, non capisco se è sulla spalla o è semplicemente agganciato alla macchina fotografica, un enorme flash con un grande caricabatterie. Alle sue spalle, su un muro, c'è invece una scritta che dà i caratteri, e proprio sono i tipici cartelloni del dopoguerra. Non so chi sia, non so dove siamo, ma siamo in Italia. Giovanni Olivito, 49 anni, San Giovanni in Fiore. La foto di mio fratello Salvatore 40 anni fa, con un po' di chili in meno e qualche capello in più, che imbraccia la passione della sua vita, la macchina fotografica, e con tanti sogni nel cassetto. Io sono qui. San Giovanni in Fiore, Cosenza o Caserta? CS c'è scritto qui, quindi Cosenza. Quindi, no, quella è CZ, Cosenza è CZ. No, CZ è Catanzaro. Possiamo stare qua, secondo me possiamo stare tutto il pomeriggio qui, ragazzi. Quindi non incistiamoci lì. Ziccuso, a proposito, mi dicono, significa pesante. 800240024, le volte in cui avete dato una mano a uno straniero. Mio suocero, questa è magnifica, Gaetano da Verona. Mio suocero prende degli autostoppisti sul suo camper, una coppia di rumeni in viaggio per vacanza. Li conosce bene, dopo un po' gli lascia il camper per una settimana, poi ospita a casa. L'anno successivo, in estate, per tre mesi, alla ragazza dà un lavoro come tecnico di laboratorio, mentre il fidanzato era in giro. Questa cosa è capitata per 5 anni ed è nata un'amicizia con tutta la famiglia. Gaetano: ho richiesto già 3 volte il visto per la mia mamma del Burkina Faso, garantendo personalmente per vitto alloggio, ma l'ambasciata la rifiuta. Marta, me la ricordo, l'abbiamo sentita. Una sera d'estate, due ragazze tedesche sono apparse a casa mia chiedendomi ospitalità. Gli fece piantare la tenda accanto alla cuccia. Il cane abbaiò tutta la notte. Questo è un messaggio magnifico. Carlo da Cremona: è tutto questo buonismo che ci fotte? O forse no, Carlo, forse è il cattivismo che ci fotte. Soprattutto bisogna sentirsi fottuti. Non so se tu hai questa sensazione. Andiamo da Slava, provincia di Venezia. Pronto? Sì, buongiorno Matteo. Ciao Slava, come stai? Sto bene, grazie. Dove sei? Sto lavorando esattamente in questo momento, guidando il camion. Stai guidando il camion, perfetto. Raccontami quando sei arrivato in Italia, da dove soprattutto e quanti anni fa? Sì, io ho 30 anni, sono di origine russa, ma nato in Moldavia, sai che prima era un paese tutto intero, no? Certo, come no, prima era la grande Russia, adesso è la grande piccola Russia. Adesso siamo 15, sempre 15 nati. Sta, certo. Allora niente, ti racconto così velocissimo anche la mia storia. Dimmi. Io sono arrivato in 2005 a Verona. Sì. Che neanche non parlavo una parola in italiano, sono arrivato... È un mio connazionale che ha detto: guarda, ero in una situazione difficilissima, praticamente neanche non avevo dove vivere. Sì. Però avevo un futuro, che ho giocato un calcio nel mio paese, però Serie A che non si compara con questa italiana. Cioè, hai giocato in Serie A nella Moldavia? Nella Moldavia sono stato anche campione nazionale giovanile, però là si riceve in Serie A, non ti dico... Cioè non arrivi a 200 euro al mese. Beh, lo immagini, però avresti voluto giocare in una categoria qua, immagino. Infatti, il mio connazionale mi ha portato praticamente vicino a sua casa, c'era una società dilettantistica che sì? si allenava. Sì. E lui che parlava e mi ha presentato un po' al presidente e ha detto: guarda, questo ragazzo ha giocato e vuole allenarsi, magari vedete un po'. E lui mi ha detto: vieni qua che vediamo. Mi ha fatto proprio in quella sera allenarmi e poi man mano... In 3 mesi io già parlavo italiano e questo uomo mi ha offerto vitto e alloggio, cioè aiutavo un po' a fare lavoretti là. Immagino. Senti, dimmi com'è andata la squadra col tuo arrivo. ragazzi, praticamente io ho giocato il secondo girone, cioè girone di ritorno, sì. Ma io giocavo centrocampo un po' arretrato, ho fatto sei gol e siamo arrivati in finale delle regionali. Grande Slava. Poi abbiamo perso ai rigori, che sono stato espulso pure io. Ma come sei stato espulso? Ma perché? Perché è successo così, no, cioè, tipo che hai segnato il rigore e hai tolto la maglietta. Fallo da rosso. Slava, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, grazie. Andiamo velocemente, prendiamone tante oggi. Elisabetta che mi ha scritto: ho tuttora in affido una famiglia di egiziani, mamma, papà e 5 figli. Pronta, Elisabetta? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, raccontami velocemente, che prendiamo tante telefonate oggi. Sì, cosa vuol dire che hai in affido? Dimmi. È stato molto casuale, nel senso che questo uomo era davanti al mio negozio e borbottava con in mano un foglio che non riusciva a comprendere quello che c'era scritto. Così si è girato e mi ha chiesto: mi puoi aiutare a capire cos'è questo foglio? E da lì è cominciata la mia collaborazione gratuita, nel senso che comunque purtroppo in Italia veramente siamo sommersi da richieste, carte bollate. E quindi dai una mano a decifrare i documenti, fondamentalmente. Esatto, sì. Ma questa cosa va avanti da quanto, più o meno, Elisabetta? Sono già 2 o 3 anni, ho visto crescere i suoi bimbi, li ho iscritti all'asilo, l'altra l'ho iscritta alle scuole medie. Quanti figli ha? 5 figli, 4 femmine, e poi finalmente è arrivato l'ultimo maschio e si è fermato. Cioè, è arrivato nel senso che è nato o è arrivato dall'Egitto? Sì, no, è nato. Ah, è fermato col figlio maschio. Elisabetta. Niente, comunque è una vita dura per questi. Guarda, sì, non solo per loro alla fine. Grazie mille, Elisabetta, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo in provincia di Padova, da Adriano. Pronto, Adriano? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Non c'è male, dai. Bravo, si tira avanti. Raccontami chi hai dato una mano. Anch'io sono interista, quindi vabbè. Ecco, andiamo oltre. Oltre. A chi hai dato una mano? Allora, io 25 anni fa circa ero assessore ai servizi sociali del mio comune e una sera d'inverno con 20 centimetri di neve fuori, il parroco del paese mi ha mandato questo signore marocchino che era andato da lui a chiedere aiuto perché erano già 2 o 3 sere che dormiva in un rudere in mezzo ai campi e quindi stava morendo di freddo in pratica. È venuto lì, io non avevo chiaramente possibilità di aiutarlo se non dandogli una stanza nell'appartamento che io avevo acquistato per andarci a abitare dopo un anno quando mi sarei sposato. E quanto si è fermato alla fine, Adriano? Allora si è fermato 9 mesi. Un parto praticamente. Sì, ha preso la residenza, quindi io avevo già la residenza lì, quindi siamo stati nello stato di famiglia assieme. E questo gli ha permesso di portare tutti quanti i figli qui in Italia, anche la moglie. Senti, lo senti ancora questo signore oppure? Purtroppo quando sono arrivati tutti quanti, un giorno ho visto che non c'era nessuno a casa, sono andato in municipio, ho visto che aveva tolto la residenza, si era spostato nella zona di Brescia, in un comune di Brescia, e non l'ho più visto. Adriano, ti ringrazio moltissimo. Buona giornata. Okay. Ciao, grazie. Andiamo, ce la facciamo, vero? Andiamo a Frosinone da Roberto. Pronto, Roberto? Ciao, Matteo. Ciao. Raccontami, nel 92 hai ospitato chi tu? Era il periodo della Partizan, quando arrivavano gli albanesi con la nave Partizan. Non capivo cosa fosse la Partizan, certo, le immagini quelle della Puglia, esatto, giusto? Okay. Esatto, quella del lancio delle bottiglie d'acqua. In sì, mi ricordo bene. E niente, ho ospitato Roberto Sina, che è venuto per fare un buco davanti a casa ed è restato 3 mesi con me. Cosa vuol dire per fare un buco davanti a casa? Dovevamo mettere una pianta. Lui è venuto, si è offerto di fare questo lavoro, mi ha detto mi riaccompagni a casa. Era una Pasqua freddissima, sì. L'ho accompagnato a casa, praticamente viveva in quelle baracche da cantiere. Sì, chiaro. E ha detto: qua tu non puoi dormire, ci resti secco questa notte. E quanto è rimasto da te poi, Roberto? È restato il tempo per rimediare 3 milioni di lire, per riscattare la casa che aveva impegnato per curare il figlio malato di emofilia. Raggiunti 3 milioni di lire, si è fatto accompagnare alla stazione e ha raggiunto Brindisi poi per imbarcarsi. E l'hai mai più visto o sentito? No, mi ha scritto nel periodo dell'estrema confusione in Albania, sì, quando c'è stato proprio il crack finanziario. Sì. Ho risposto, ma da allora non ho più ricevuto notizie. Roberto, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Un ultimo messaggio, ve lo leggo con un po' più di calma. Barbara mi scrive: una sera aiutai una signora ucraina trovata in lacrime sul treno Torino-Milano. A Milano Centrale, presa dal panico perché dei suoi connazionali gli avevano rubato dei bagagli, era salito sul treno per Torino invece che su quello per Udine. Era disperata, non sapeva dov'era né come tornare a Udine, essendo sera ed essendo finite le coincidenze. Una volta arrivata a Centrale, dopo il viaggio da Torino in cui abbiamo parlato, si era assicurata. L'ho accompagnata alla polizia, che le ha permesso di stare da loro la notte, senza rischi di incontrare chissà chi. Quello che mi ha colpito maggiormente è quanto si sia data la colpa per essere stata così disattenta nel farsi rubare le cose. Era diventata una questione di principio e di orgoglio. Questo era l'ultimo messaggio di oggi. Ce ne sono un sacco di altri, purtroppo non riesco a leggerli, però magari li pubblichiamo sul profilo Facebook, è sempre quello. Matteo Caccia, io sono qui. Grazie a Tiziano Bonini, a Laura Faggin e a Fabio Cantadori. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?